Vai Milan, combatti così, altro che zanzara. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci, 9-8 minuti, siamo qui per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan in diretta fino alle 11, cari ascoltatori. Bene, bene, questo è lo spirito che ci piace. È tornato l'Alpino in regia, guarda la penna nera lì. Oh, ma quando lavori? Questo è quello che ti è stato chiesto varie volte in questi giorni. Dove cavolo eri finito, caro Alpino? Vabbè, eri in giro per il mondo, non vogliamo saperlo. Eri a Davos, forse con i ricconi e i ricastri. Dai, allora, insieme all'Alpino che è tornato in regia, c'è Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi, che invece non si sono smollati di un secondo. Siamo qui con voi, 800240024, con una puntata come al solito ricca, speriamo, di spunti, di tematiche, di inviti a chiamare, a scriverci al 349-238-6666. Dai, oggi mi viene chiesto dai giornali almeno di fare una scelta di campo. Io non sopporto mai questa divisione binaria del mondo tra bianco e nero, ma soprattutto bianco-nero messo insieme, figurarsi, adesso leggo i giornali e oggi mi viene chiesta una scelta di campo tra Trump e Greta. Tra Trump e Greta, il mondo è fatto di sfumature, ma se proprio proprio devo decidere se stare dalla parte di Trump o dalla parte di Greta, secondo voi, da che parte sto? Enthusiasm about the future? Zero dubbi. Io, se proprio devo scegliere, adotto Greta Thunberg come terza figlia. Cioè, proprio così, se me lo consentono i genitori, se proprio devo fare una scelta di campo. Cioè, non so se vi rendete conto, l'uomo più potente del mondo che ha una ossessione per una diciassettenne. Questo diciassettenne, sedicenne, quanti anni ha Greta? No? Per cui, allora, è spiegabile magari il contrario, cioè che uno dica Trump, anche Greta Thunberg è sicuramente ossessionata da Trump, ma Trump che se la prende con una ragazzina di 17 anni, che badate bene, perché questa cosa va detta una volta per tutte e va ribadita: Greta Thunberg non è portatrice di alcuna teoria, non porta avanti alcuna teoria sua personale. Sta semplicemente dicendo, e ha iniziato come una povera sfigatella da sola davanti al Parlamento della sua nazione, a dire: ascoltate gli scienziati. Questo sta dicendo da mesi, se non un anno. Ascoltate gli scienziati. Non sta dicendo: io sono Greta Thunberg, ho studiato e vi dico che andrà così. Ma sta dicendo: il 99,9% degli scienziati nel mondo dicono che andrà così. Per favore, magari lei lo dice senza per favore, ascoltateli. E anche ieri a Davos ha detto questo: ascoltate gli scienziati. Especially that we start listening to the science and that we actually start treating these crises as the crisis it is. Non so se capite l'inglese, comunque invita ad ascoltare la scienza e quindi ad affrontare la crisi per quello che è. Cosa fa di male? Dice semplicemente di ascoltare gli scienziati. Come risponde Trump? Come risponde l'uomo? Come condisce e conclude la questione l'uomo più potente del mondo? Sei una sfigata, porti sfiga, sei una profeta di sventura, punto, a capo, discorso finito, passiamo all'argomento successivo. This is a time for tremendous hope and joy and optimism and action, but to embrace the possibilities of tomorrow we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the capiti? Apocalypse. È il momento dell'ottimismo, della gioia, e quindi per fare questo dobbiamo rifiutare questi profeti di sventura. Sfigata, Greta, sfigata, sei una sfigata. No, ma guarda, la scienza, ascoltatemi, la scienza dice questo. Cominciate a ascoltare la scienza. Sfigata, andiamo avanti. Prossima domanda, prossima questione. Quindi il tema del cambiamento climatico l'abbiamo affrontato così. Basta sfigati. Poi? Crisi Nord Corea, c'è qualcosa? No, questo è l'atteggiamento, l'atteggiamento di Trump. Io veramente, d'altronde, Trump è una notizia che è passata un po' in sordina, ma due giorni fa sono rimasto molto colpito, ho aperto i giornali, ho scoperto che Donald Trump, presidente americano, ha deciso di togliere dalle scuole americane le ricette che aveva portato Obama nelle mense, quindi più frutta, più verdura. Perché Trump ha detto torniamo a hamburger e patatine, chips and hamburger, American, American. Poi dopo se c'è l'obesità, il diabete, il cancro, le malattie, i sovrappesi, ma chi se ne fotte, dai, lo spirito americano, hamburger, chips, sfigati e via. Due tweet e avanti. Scusate, se proprio devo scegliere, l'ha adotto Greta Thunberg. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. Sì, sì, vabbè, per carità, giusto, giusto. Tra l'altro, oggi invece sul quotidiano nazionale c'erano le due facce, Greta Thunberg e Trump, e lì ho scelto. Mi ha stupito invece Repubblica, ho dovuto riaprire la pagina 2-3 di Repubblica 15 volte perché pensavo di essere piombato in un sogno e invece l'ho riaperta 15 volte ed era sempre uguale. Cioè, secondo Repubblica, mette a pagina oggi 2-3 Repubblica, da una parte Greta Thunberg, i giovani che sfidano il potere, Greta Thunberg, e dall'altra parte la sardina, Mattia Sartori. Cioè, no, adesso io voglio dire, Greta Thunberg e il suo movimento mondiale e, con tutto il rispetto, la sardina. Secondo Repubblica sono sullo stesso piano, come i giovani che sfidano il potere, guardano al futuro. Greta Thunberg, miliardi di persone nel mondo sanno chi è e la seguono o la critica, e la sardina. E ho aperto 10 volte la pagina, era sempre la stessa. Va bene, dai, se volete parleremo anche un po'. Se volete, siete appassionati di questa campagna elettorale? No, per carità, non è che voglio dire, qua non ci sono candidati qui in questa trasmissione da intervistare. Sono da Simone Spezia e Maria Latella, li ascolterete tutta la settimana. Avete sentito Salvini cosa fa? Cosa ne pensate di Salvini che è andato a citofonare al possibile pusher, perché gli hanno segnalato che c'è uno spacciatore e Salvini è andato a suonare a uno, a Bologna. Buongiorno, buonasera, è il signor Iaia? Lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? No, a casa mia, sì, a casa sua. No, perché ci hanno segnalato cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Ma chi è questo? Ce l'hanno detto dei cittadini. Hanno detto giusto e sbagliato. Vabbè, Salvini col codazzo dei giornalisti che va ridacchiando anche poi a chiedere se c'è uno spacciatore. Segnalo, ma lo faccio così, come colore, adesso mi attirerò tutte le ire dei leghisti, va bene. Segnalo l'articolo 660 del codice penale. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, mi sembrava che fosse in luogo pubblico, per petulanza o biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo. Ecco, chiunque lo fa è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 516 euro. Ma lasciamo stare che Salvini qualche problema già con la giustizia, tutta la vicenda 18 ce l'ha. E quindi vabbè. Sì? Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Va bene, ne abbiamo uno. Ecco. Cioè, vabbè, insomma, Salvini che va a suonare a dire c'è uno spacciatore? Questo è, cari ascoltatori. Tra l'altro Salvini, devo dire, sicuramente invece prenderà molti voti, perché oggi è una notizia che sicuramente farà anche un po', susciterà clamore, polemiche. L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, dice: mi piace la grinta di Salvini, io voterei per la sua candidata, che poi è donna, una novità, ma Sinisa Mihajlovic sta dalla parte della Lega e di Salvini. Ma visto che si discute molto di prescrizione, visto che si discute molto di giustizia, io vorrei presentarvi, e mi accosto a lei con il massimo del rispetto, un ospite che ho sentito dire una sua dichiarazione, dice la sua prescrizione, che peraltro è per una vicenda che la segnerà a vita, non c'è prescrizione in questo, la sta scontando sulla sua pelle. Io voglio salutare la signora Daniela Ricci, che è con noi. Daniela, buongiorno. E buongiorno. Grazie, e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Lei è la madre di Alessandro. Alessandro, 24 anni, fu ucciso a colpi di pistola, era il 26 marzo del 2013. Sì. E fu ucciso da una persona, poi si è scoperto alla fine di una serie di processi, Riccardo Menenti, che è stato condannato all'ergastolo, via definitiva, sì, in Cassazione. Quattro processi ci sono stati. Sì. La Cassazione ha accertato, c'è un passaggio della Cassazione che scrive che la responsabilità di Riccardo Menenti è accertata al di là di ogni dubbio. Esatto. La vicenda, per il fatto che ha confessato. Chiaro. La vicenda che ha portato alla ribalta questa notizia e ha, devo dire, costretto lei e i familiari, sì, a scendere in piazza a protestare, è perché incredibilmente ora Riccardo Menenti si trova libero. Libero. Libero, che detta così suona come una cosa che fa sobbalzare sulla sedia. Ci vuole spiegare perché tecnicamente, ancora prima che... Per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in quasi 7 anni non sono stati capaci di chiudere questa storia. Perché c'è un quinto processo, la Cassazione, sì, ha chiesto di rivalutare l'aggravante di crudeltà, se ho capito bene. Quarto processo. Cassazione ha rimandato a Firenze per rifare il processo per Valerio, il figlio, mm-hmm, è un processo bis, e per rivalutare le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà per il padre. Certo. Domando io, va bene, tu ridiscuti pure la crudeltà, l'aggravanti, tutto quello che vuoi, però perché lo scarceri, dato che hai scritto che la sua responsabilità è stata accertata, gli farai fare meno anni di galera, ma intanto non lo metti fuori di galera. Lei dice giustamente, no? Da una parte ci sono i codici, i tecnicismi, ecco, e dall'altra parte la logica, quello che la ragione spingerebbe. La logica. Quindi per un vizio, adesso non lo so tecnicamente come si dice, però ci ritroviamo fuori un assassino, una persona che alle 3 di notte è entrata in casa, voleva chiarire alle 3 di notte con una pistola, è entrata in casa della gente, ragazzi, alle 3 di notte. No, no, ma questo il fatto è accertato, come accertato che se la Cassazione confermerà per l'ennesima volta il verdetto, ritornerà in carcere. Il problema è che lei dice in questo momento è libero, intanto, e potrebbe anche fuggire. Ma il problema è che deve tornare in carcere prima di subito lo devono rimettere in carcere a questo. Cioè, ma io m'aspetto proprio che subito ce lo rimettano. È intollerabile che sia fuori, ragazzi. Io non... Punto. Parli lei. No, ma è intollerabile sicuramente, ed è per questo che lei è andata davanti alla Cassazione, proprio davanti al Palazzo della Cassazione. Siamo andati davanti alla Cassazione. Sì. Con esponendo anche delle foto, non so se gli ascoltatori ricordano, insomma, la vicenda Cucchi è nata un po' così, quando la sorella ha iniziato a esporre anche le foto di impatto visivo, sì, terribile, insomma, del figlio, sì, del fratello ucciso. Lei ha fatto più o meno la stessa cosa, no? Abbiamo fatto la stessa cosa perché nostro malgrado, dovevamo dimostrare che loro hanno, cioè la legge, legalmente è uscito un mostro dalla galera. Una persona che sì, gli è stata tolta l'aggravante della crudeltà, ma a noi hanno detto che i manifesti comunque erano troppo cruenti, però l'aggravante della crudeltà gliel'hanno tolta. Lui ha ridotto una persona in quello stato, non si è mai pentito, non ha mai chiesto scusa. E quindi io, l'impatto mediatico abbiamo dovuto crearlo perché ci sentiamo proprio violentati dalla legge, dallo Stato, dal sistema. Noi eravamo tranquilli, io sapevo che lui doveva scontare un ergastolo. Poi se l'ergastolo in Italia si riduce a 30 anni, a me andava bene lo stesso. È una coccola per l'anima sapere che una persona di questo tipo è in galera. Mm. È necessario per un genitore saperlo in galera. È fondamentale. Cioè, me lo ritrovo libero, io mi sento male proprio. Non c'è, sapere non c'è, che lui non c'è dubbio, insomma, non... ma sì, ma non è giusto, non è giusto, non è giusto. Tra l'altro col rischio anche che possa scappare, voglio dire, è una delle opzioni. Ma 60 anni con la prospettiva di avere 30 anni di galera davanti, ma lei ci rimarrebbe in Italia? Io non lo so. Oltretutto non gli hanno neanche applicato delle misure, non so come si dice, niente, lui è libero, come l'aria. Lei ha scritto anche al ministro Bonafede, sa che sì? Ha sentito tutto il dibattito politico sulla prescrizione, che effetto le fa vedere, che è un tema fondamentale per la lunga... Ma io l'ho detto, venerdì scorso l'ho detto ai giornalisti di fronte alla Cassazione, di fronte al Palazzo di Giustizia. Si parla tanto adesso di prescrizione, no? Io sapevo almeno che nei reati di omicidio la prescrizione non c'era. Mm-hmm. Io. Sì, infatti questa qui... che cos'è? Adesso mi spiegassero questa cosa. Che cos'è se non è una prescrizione di fatto? Che cos'è? Come la chiamiamo questa? Sì, tecnicamente, ma appunto, è la stessa cosa? Tecnicamente è la decorrenza dei termini, però il risultato, lei dice, è lo stesso. Quello che l'assassino di mio figlio in questo momento è. Il risultato è lo stesso. Quindi noi abbiamo una forma di prescrizione anche per i reati penali, reati poi di una particolare gravità. Forse dobbiamo cambiare delle leggi in Italia, forse dobbiamo metterci nell'ottica di cambiare le norme che ci mettono poi in questa situazione, perché poi l'altro giorno alla Vita in Diretta, la mattina, non mi ricordo. Vabbè. Dov'è? C'era un ospite, dice: sono 25 anni che sento le famiglie dire abbiamo dovuto rivolgerci ai mezzi di stampa perché è l'unica nostra, sì, l'ultima possibilità nostra. Allora forse sono 25 anni che le leggi sono sbagliate e sono 25 anni che non abbiamo cambiato le leggi. Sì, qui c'è da dire, c'è anche un lato appunto di amarezza, perché lei, ecco, e i suoi familiari avete detto: noi per questi anni non abbiamo mai concesso mezza intervista, mai, non abbiamo mai detto mai una parola, però siamo costretti a questo punto a per far valere alcuni diritti a farlo, ecco. Ma sì, ma cioè, lo devono sapere tutti. Questa è una situazione, purtroppo, in cui tutti i genitori possono trovarsi, no? Perché una zuffa tra ragazzi, anche insomma abbastanza pesante, è stata risolta così dal genitore. Risolta, punto. Quindi ho detto, dobbiamo portarla in piazza questa cosa. Io non ho mai ritenuto né opportuno, perché i processi si fanno nei tribunali, l'ho sempre detto, né necessario andare in televisione o rivolgermi a voi, ai giornalisti, perché dico, sicuramente di fronte a una cosa del genere la legge farà il suo corso e lo farà nel migliore dei modi, ma non mi aspettavo che dopo sei anni e mezzo, quasi sette anni, questo lo lasciassero libero, proprio guarda, all'ultimo dei miei pensieri. Su questo l'ultimo, non c'è dubbio. Senta signora Daniela, noi la ringraziamo, insomma l'abbracciamo, siamo qui per quello che appunto può essere a questo punto, dico, utile alla famiglia, cioè, perché a volte oltre a denunciare è bene anche che se lei dice i mezzi di informazione devono servire a far sapere alcune cose, come dire, dico questa frase brutale, ci utilizzi, ecco, ci sfrutti, e mi sembra assolutamente corretto. È giusto. Io intanto la ringrazio. Voglio ricordare Daniela Ricci, è la mamma di Alessandro Polizzi, che a 24 anni è stato ucciso, era il 26 marzo 2013. da Riccardo Menenti, che era, che è il padre di Valerio. La vicenda era legata al fatto che questo Valerio aveva avuto una storia con la fidanzata, che poi era la fidanzata, diventata la fidanzata di Alessandro, quindi probabilmente il movente è questo, litigio eccetera, finito però così, e adesso si trova libero. Libero, pur essendo stato condannato all'ergastolo, Riccardo Menenti, in attesa che la Cassazione si ripronunci definitivamente. Questo è. Allora, andiamo un attimo in pubblicità. Ho visto già che c'è l'Entopede Manera in circolo. Poi voglio collegarmi un attimo con Roma. Voglio sentire la mia amica Saretta come sta per questa storia dei rifiuti. Perché a Roma ho visto che sono scesi in piazza degli attori, Tognazzi, il doppiatore Luca Ward. Sono scesi in piazza per... Vabbè, non vogliono la discarica, però vorrei capire, ma Roma, sta storia dei rifiuti, ma l'hanno risolta? L'avete risolta a Roma questa questione dei rifiuti? Viva i gabbiani, sempre, questo si sa. Viva i gabbiani contro chi ce l'ha coi gabbiani, che sono bianchi, lindi, belli, puliti. L'avete risolta a Roma sta storia dei rifiuti? Chi lo sa? Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ancora insisti? Cosa cazzo dici? Staffelli, quelli di Striscia, delle Iene, Brumotti, lo fanno tutte le settimane andare in luoghi pubblici dove si spaggia. Milan! Si spaggia! Ma quindi quelli di Striscia la Notizia che vanno dagli spacciatori e con il cartellone spacciatori spacciatori dovrebbero teoricamente andare in galera, o no? Vergognati Milan, vergognati, rappresenti una radio di un giornale economico. Sì. La Thunberg, che è una marionetta guidata, si è visto da chi, da chi è andata a parlare con i grandi e con i ricconi, che sono loro che comandano la terra, loro che comandano le aziende in India e in Cina che producono l'inquinamento, loro che comandano gli allevamenti massivi che sono deleteri. Milan, vergognati. Sì, non ho capito niente. Ma io non c'ero nella prima parte. Buongiorno, ma mi sembra che tu abbia detto qualcosa che non è stato gradito dalla parte maggiore degli ascoltatori. Ho detto come, ma come battuta, ma ci mancherebbe. Articolo 660 del codice penale, lo leggo qua. Dov'è cavolo è finito? Chiunque in luogo pubblico reca a taluno molestia o disturbo è punito anche col mezzo del telefono per petulanza o altro biasimevole motivo, è punito con l'arresto. Ma così sorridevo di Salvini che ha citofonato lo spacciatore dicendo: è nuovo format. È nuovo format. Processi al citofono. Esatto. Io farei un format che si chiama Processi al citofono. Ma la gente quanta è incattivita. Questo di Sprea, perché ho letto sull'ospite che c'è tra poco, di Greta non ho capito niente da che parte sta, cioè, se non che mi devo vergognare. Sì, anch'io ho capito che sono loro. Però non ho capito. La marionetta che parla con i potenti che controllano il mondo, appunto, non ho capito di cosa ti accusavo. Per convincerli a cercare di cambiare il mondo, cosa deve fare? Ma non ho capito se tu parlavi bene o male di Greta. No, io ho detto, hai se avuto devo da ridire su Greta? No, ho detto, se c'è da scegliere tra Trump e Greta, vado ad adottare Greta e farla come terza figlia. Ho capito cosa diceva l'ascoltatore. Ho capito, ho capito. Va bene, diceva che tu difendi Greta, ma in realtà Greta è manovrata dai potenti. Quindi, sì, anche tu che difendi Greta dovresti capire che invece è tutta una sceneggiata, dice l'ascoltatore. Senti, dai, qua io voglio sapere una cosa. Allora, devo sentire la Sprea, devo sentire Saretta che eccoci. Che Saretta, che per i miei figli è Saretta McQueen, ricordiamo sempre. Certo. Saretta che lavora, Sara Sprea. Possiamo dire il cognome? Ma sì, si può dire. No, non lo so. Intanto vergognati. Brava. Questo sempre dovrebbe vergognare. Sara Spreafico che lavora, non è l'arena da Giletti, lo devo dire, se no ogni volta viene qua, prende un treno, viene a Milano, mi tira le orecchie solo per quello. No. Che non ho detto. Vorrei capire come va a Roma coi rifiuti, perché tu pubblichi sempre le foto. devo dire, sì, deve essere il Truman Show, ma stamattina da casa fino a dove lavoro tutto pulito. Tutto pulito? Vedi? Giuro. Perché giuro, sapevano, no, che ti avrei chiamato. Cassonetti in ordine, certo, qualche cosa per terra c'è, canestrata. Però vediamo quanto dura. Tutto pulito lì, non so dove l'abbiano messa la spazzatura, io non ho ancora capito. Non ho capito dove la mettono. Ma contentati però... adesso, cioè cosa vuoi? Lo so, ma contento, però è strano, perché qui un giorno sei invaso e nuoti nella spazzatura e puoi vederli vicino cosa ha mangiato e che detersivo usa, e il giorno dopo sembra Lugano. Secondo me li hanno spostati in altre zone della città. Io farei così, le prendi da una parte. Sì. Di notte infatti arrivano tutti gli omini dell'ama, raccolgono tutto e li spostano in un altro quartiere. Perché sapevano che noi ci saremmo collegati con Sara, sì, e sanno anche il percorso, il tragitto che lei fa da casa. Allora, e hanno spostato. Dal Gemelli fino ai Prati, passando dalla Valduina, Cassonetti puliti, Truman Show. Senti che bello il traffico di Roma, facci sì, sentire un pochino, fai suonare qualcuno, fai suonare il clacson. Devo rimettermi in moto. C'è uno smog pazzesco poi, non so se anche a Milano, vabbè, dove è tutto sì, perfetto adesso. C'è anche lo smog. Senti come ironizza, sì, come sì, tutto. Sì. No, sì, è che invidia, perché le manca. A Roma si fuma per strada, c'è gente che fuma. Senti, continua esatto, con questa ironia. Sì. Ironia ficcante. Sì, perché in realtà l'abbiamo lasciata dalle province, dalle montagne lecchesi, che è partita di lì per un lungo viaggio, anni fa, dalle montagne lecchesi, esatto, poi, è tornata. Poi Milano, poi adesso diventerà romana e poi non lo so, ecco, basta, l'abbiamo perduta. Ma mi sembra molto affezionata a Roma, è come gli allenatori che vanno a allenare una squadra e diventano tifosi di quella squadra. E poi diventi, io dico sempre che Roma è un po' una città, è come quando ti innamori di uno stronzo, si può dire? Sì, insomma, si può dire. Innamori di uno che però ti tratta male, e Roma è uguale. E Roma è uguale. Ti tratta male, cioè ti fa le corna, ti dice cose non proprio belle. Ecco, Roma è così. È stupendo. Ti innamori e poi ti tratta un po' male. È stupendo. Sarà, sarà felicissimo il tuo compagno per questo per questo paragone. Ma infatti te non mi tratta male. Ti innamori degli amori impossibili. No, siccome ti è venuta così, è venuta così spontanea come metafora, come quando ti innamori, e quindi una cosa che per esempio a Leonardo Manera non è mai capitata. È lui che fa il ruolo appunto del suddetto. Io mi sono quasi sempre innamorato, ma raramente sono stato ricambiato, ecco, con amore. Solo che Roma, allora guarda Leonardo, vieni qua, ti sentiresti a casa. Ho avuto una fidanzata di Roma. Eccola lì, e siamo a 42. Eccoci qua, 42. Comunque tutto a posto ragazzi, se volete io faccio un altro giro e vi dico tra un po' se va bene. Tu fai un esperimento, domani o nei prossimi giorni cambia tragitto senza dirlo a nessuno e va poi bene. Facci sapere se anche in quel tragitto, perché allora c'è davvero il Grande Fratello, esatto, va bene, intanto ti va lasciamo bene. Salutaci Massimone Giletti e digli forza Milan sempre, mi raccomando, porta questo messaggio. Grazie a Saretta la Sprea, come la chiamo io, caro Leonardo. Stamattina in metropolitana mi sono seduto, sì, nel posto dove poco prima era seduta una signora cinese e dopo ho cominciato un po' a tossire. Sono preoccupato. Non vorrei che il coronavirus avesse fatto ingresso nel mio corpicino. Tra l'altro, pensa alle ironie, non si ironizza su questa cosa, ma coronavirus. Cioè, ci potrebbe nei bei tempi di Fabrizio Corona, o potevamo chiamare anche Mauro Corona. Sì, ma io sono veramente preoccupato per la metropolitana. Dai, smetti. No, è vero. Ho capito, ma adesso hai visto una cinese. Cioè, abbiamo un cinese. Sono preoccupato per stamattina, sono preoccupato prendendo tutti i giorni la metropolitana se eventualmente il coronavirus dovesse diffondersi. Sì, a quel punto dovrò rimanere a casa sempre, sappilo. Sì. Sappilo. Va bene, metti le mani avanti. Metto le mani stai avanti. Stai per dirci che tra due giorni dice sono a casa, ho preso il coronavirus. No, io dico che se si dovesse verificare un caso di coronavirus in Italia... È il tuo. No. Io a quel punto me ne resto a casa, mi barrico in casa. Utilizzi davvero, porti a termine il tuo ideale percorso di vita. Ti barrichi in casa, l'uomo grappa, l'uomo barricato, signori. Lo avremo tra poco, è Leonardo Manera. Stai con noi, che in realtà tu dici che vuoi stare a casa, ma poi preferisci venire qui, vedere Miriam Lucchetti, vedere quello Elisabetta sì. Fusconi, anche l'Alpino, Peter Bescapè. Domani comunque non posso venire in studio. Perché? Ho una forma para influenzare domani. Vabbè. Rimango a casa in pigiama. Giovanni da Bologna, digli qualcosa. No, no, vabbè, Giovanni ha chiamato per altri motivi, forse, non lo so. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto gli dico, mi auguro che stia bene. Sì, ma lui invece si augura di avere una forma parainfluenzale, faccia così. No, speriamo bene di no. Volevo, niente, intervenire sul discorso, intanto buongiorno. Buongiorno. Di Salvini al pilastro ieri, che suonava il campanello, che suonato il citofono, vabbè. Sì, però non si sente niente, Giovanni, il telefono bene attaccato, dai. Sì, molto attaccato. Premesso che dovrebbe essere la candidata eventualmente a fare la campagna elettorale. Vabbè, aspetta Giovanni, non si sente niente, il telefono va e viene e quindi magari ripristiniamo il collegamento. Ma tu effettivamente, come fa notare un ascoltatore, gli ascoltatori sono molto attenti, caro Leonardo, ma un tempo non avevi lanciato il segui cinese? Sì, è vero, due anni l'anno scorso, vogliamo due anni rispiegare fa forse. Questa iniziativa, siccome i cinesi sono coloro che economicamente sono potenti in questo momento, sono i più potenti i cinesi, quindi insieme. E quindi per capire come guadagnare, quali investimenti fare, bisognerebbe seguire un cinese nell'arco della giornata, vedere in cosa investe, come spende, cosa fa e poi comportarsi dove esattamente va, come lui, che locali frequenta. E perché non lo fai adesso il segui cinese? Domanda pleonastica, superflua e tendenziosa. Adesso non lo faresti più. Mai, mai, mai. Sei un razzista, cioè gli stai dando degli untori. No, non è che io do dell'untore, è che i primi casi diffondono in Australia, in Corea. Io sono terrorizzato dal fatto che possano giungere qui in Italia. Dai Giovanni, l'abbiamo recuperato, dai, come si sente? Oh, bene adesso, oh, forza. Dovrebbe andare la candidata. Vabbè, questa è una polemica che c'è già stata, cioè perché fa la campagna Salvini e non la Borgonzoni, o la fanno tutti e due. Va bene, poi? L'altro discorso è che a Bologna, al pilastro, nel 91, sono stati uccisi tre carabinieri. Se voleva fare qualcosa di buono, almeno portare una corona lì dove c'è il cibo, dove sono state uccise ai carabinieri. Invece che citofonare al campanello. Ma dai, però la campagna elettorale non è che si basa su questi teatrini, anche io li ho messi in apertura, però si spera che ci si concretizzi, poi ci si focalizzi sulle questioni concrete, no? Cioè, no, Giovanni, è uno di quei momenti così teatrali che i candidati fanno. Lui ha citofonato. Ha citofonato. Però c'è tanto teatro e questo, voglio dire, secondo me non va bene. Poi l'altra cosa che volevo dire è, naturalmente il pilastro è un territorio popolare, difficile, dei problemi ce ne sono stati, ma dall'altra parte la maggioranza delle persone che ha lavorato sul territorio impegnandosi con attività culturali, sociali, chi più ne ha più ne metta, voglio dire, si dà un'immagine distorta di un territorio e uccide tutto quello che di buono viene fatto quotidianamente su quel territorio. Cosa non va bene. Va bene, insomma, Giovanni, questa è la critica che accogliamo. Io però, prima del traffico, nel ringraziare Giovanni, vorrei sottoporre a Leonardo Manera, perché leggesse lui il titolo oggi di Libero, di una lettera che Paolo Del Debbio ha scritto al sindaco di Milano Sala. Sapete che da giorni io dico personalmente che Sala fa bene a dire la lotta al fumo, la lotta basta allo stadio, il fumo basta sotto le pensiline, cioè in tutti quei luoghi in cui rischi di fumare addosso alle altre persone. Allora oggi Paolo Del Debbio fa una lettera accorata su Libero invitando Sala a stare attento e a fare un contrasto a un'altra questione. Anche tu sei un bel tipo, fondamentale. Però. Dove ci sono dei titoli un po' sconvenienti, dici li do da leggere a Leonardo Manera. Ma guarda, leggi tu. Porca miseria. Che cosa chiede Del Debbio a Sala? Invitandolo a... Adesso Sala si occupi anche di peti milanesi. Peti. I peti. Cioè, i peti, vabbè. Ogni giorno in città, tramite le flatulenze, vengono emessi 2 milioni di litri di gas inquinanti. Tanto. Come ha fatto il calcolo, ad esempio? Non lo so, 2 milioni di litri di gas inquinanti. Il sindaco deve intervenire. Io lo vedrò a sala, tra l'altro, a fine mese, sai? Diglielo, portati questa lettera di Del Debbio a dire... Andrò in comune a Palazzo Marino con i City Angels per una premiazione, diciamo, per i City Angels, con i quali io di tanto in tanto collaboro. Prova a lanciargli questa iniziativa. Guarda, Del Debbio chiede di controllare anche i peti dei milanesi, sono tanti milioni di litri di gas inquinante. Glielo dirò. Va potrei bene. Farne uno lì al momento, ecco, per evidenziare il problema. Eccolo là. Non sarebbe male. Sindaco Sala. Senta. Vabbè. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, vediamo, Alessandro Milan con chi sta? Con Greta Thunberg o con Trump? Vediamo. Ma chi se ne frega? Lo sapevo, era scontato. Ma chi se ne frega? Questo è l'originale. Non so dove abiti Saretta, ma beata lei. Qui sulla Cassia non riusciamo a camminare sui marciapiedi per la spazzatura. L'abbiamo detto che la spostano da un quartiere all'altro. Sì, un giorno esatto. In un quartiere, un giorno nell'altro. Quindi magari domani sulla Cassia sarà tutto lindo e nel percorso della nostra Saretta vedremo. E caro Leonardo, eccoci qua. Allora, l'infinita polemica di questi giorni sulla canzone del rapper Junior Kelly, in cui parlava in modo inaccettabile di una donna, mi ha fatto pensare. Non tanto mi ha fatto pensare a quella canzone, ma il fatto che nella musica rap, che è la più ascoltata dai più giovani, certi tipi di testi violenti e grevi, anche nei confronti del genere femminile, siano all'ordine del giorno, siano la norma più che l'eccezione. È vero che anche in passato c'erano canzoni di questo tipo in cui gli epiteti rivolti alle donne non erano certo particolarmente gentili, ma tutto sommato erano un'assoluta minoranza. Mentre invece nelle canzoni del Festival di Sanremo di una volta, di solito era un continuo susseguirsi di fiori, cuori, amore con la A maiuscola, di profumi inebrianti e di romantici baci al chiaro di luna che poi avrebbero inevitabilmente portato al velo bianco in qualche chiesa addobbata a festa. Cos'è successo? Cosa è successo per far cambiare in modo così deciso la direzione? Perché, soprattutto nelle generazioni maschili più giovani, almeno a sentire le canzoni dei rapper, si vede la donna come un nemico più che come una ipotetica e affidabile compagna di vita? La mia impressione è che non ci si fidi più, dal momento che i rapporti durano sempre meno, che all'amore per sempre probabilmente non ci credono più nemmeno i preti che celebrano i matrimoni, uomini e donne hanno reciprocamente sviluppato un sentimento di sospetto che corre parallelo a ogni relazione. E così, mentre le donne vedono sempre meno nell'uomo quel compagno affidabile sul quale poter contare per costruire qualcosa di solido, alcuni uomini si sono fatte delle donne un'altra idea. L'idea che alcuni uomini hanno delle donne è quella di persone opportuniste che guardano solo al denaro, che stanno con un uomo solo se quell'uomo può garantire loro non solo una certa sicurezza economica, ma addirittura il lusso. D'altra parte, l'idea che molte donne hanno degli uomini è quella che gli uomini siano soggetti un po' rincoglioniti solo alla ricerca di sesso, senza nessun interesse di altro tipo tranne birra, rutti e calcio. Da qui probabilmente una sfiducia reciproca e anche una rabbia reciproca quando i rapporti finiscono. la sensazione che tutti noi abbiamo provato di aver investito umanamente in qualcosa di sbagliato, con tutto quello che ne segue. E forse la colpa, se di colpa si può parlare, è di padri e madri come noi che non hanno saputo parlare ai figli, che non hanno saputo dare l'esempio ai figli. Io però ho un figlio che è ancora un bambino, a 10 anni, e anche se sono un padre separato, vorrei dirgli che da grande può ancora provare a credere all'amore. Io ti dico, Beniamino, figlio mio, che tra tutte le esperienze che potrai provare nella vita, l'amore è ancora la più forte e la più intensa. Quando il pensiero per una persona ti permette di essere contento al mattino quando ti svegli, quando ti fa sopportare le storture della vita, la sveglia che suona troppo presto, la calca in metropolitana, magari le difficoltà a trovare lavoro e, come capita a tutti, magari anche qualche problema fisico, ma ti fa sopportare tutto perché sai che poi incontrerai quella persona che già quando la vedi da lontano ti fa sorridere e che più si avvicina più hai voglia di darle un bacio. Perché sai che con lei puoi condividere i tuoi pensieri, le tue emozioni, quello che sei veramente. E lei lo può fare con te. E quando, dopo una giornata di lavoro, torni a casa stanco e fai l'amore in silenzio, anche senza parole, ma sentendo solo il tuo corpo che parla insieme al suo. E quando alla fine, abbracciandoti a lei o semplicemente tenendole la mano, senti che nel mondo non sei solo. Il mondo, i rapporti umani, Beniamino, figlio mio, non sono tutta merda, non sono tutti da buttare. Io credo che nel 21° secolo l'amore sia ancora la migliore opzione su cui puntare. Bravo Leo. Dovrei, per completezza, e mi dispiace rompere questo attimo, so già cosa vuoi dire. Io penso che l'amore finisca sempre e comunque. Caro Beniamino, bisognerebbe anche aggiungere che l'amore finisce sempre e comunque, ma lo dice il tuo papà. Lo dice sì, il tuo ma papà. All'inizio, quando sei giovane, puoi ancora crederci. Credici, Beniamino, finché ecco. Hai la mia quindi, età. Ecco. Beniamino, non devi credere a papà. Quindi, quando dice che l'amore finisce sempre e comunque. Finisce, però in quel realtà, momento è bello crederci. Però in realtà papà ha ragione. Ma non adesso. Vabbè, non ho capito niente. Te ne renderai conto più avanti, finché hai 20-30 anni, credici, Beniamino. Quindi fino ai 20-30 anni non credere a papà quando ti dice che l'amore finisce sempre e comunque. Poi scoprirai che papà in realtà ha ragione a dire che. Dopo lo scoprirà. No, vabbè, dai, ma non volevo rompere l'incantesimo per questo meraviglioso, meraviglioso pezzo che hai scritto. Gabriele da Padova, eccoci Gabriele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signor Milan, sì, buongiorno anche sì. A Manera e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Io volevo semplicemente farle una domanda. Salvini mi dice che ha suonato il campanello inopportunamente a questo presunto spacciatore, giusto? Sì, sì, sì. Arrecando quindi disturbo. La domanda mia è semplice: e quando i giornalisti vanno a suonare nelle varie case delle persone che sono o indagate o presunte indagate, non arrecano disturbo? Sì, sì, secondo me, infatti. Io non lo condivido, per esempio. Io non amo assolutamente le interviste d'assalto per strada. Io quando. In passato l'ho anche detto, quando ho visto dei politici. La violenza è sempre sbagliata, ma quando ho visto dei politici a volte. Di fronte al petulante giornalista che gli caccia un microfono in bocca, a reagire magari a volte anche con un buffetto o uno schiaffetto, insomma non è che ho detto vabbè ragazzi, uno nella rabbia ci può stare, cioè nel senso non si fa così un'intervista, ecco. Però Gabriele, quindi il rischio del moralismo è sempre dietro l'angolo quando si fanno le interviste d'assalto per strada eccetera. Sì, sì. Comunque, Gabriele, dobbiamo andare al giornale radio, quindi in qualche modo le diamo anche ragione su questo. C'è il giornale radio, dopo torniamo. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao ragazzi, credo di aver preso il coronavirus. Parlo così e ho voglia di vino e montagna. E tenete conto che io sono di Foggia. Io, caro Manera, aderirei al Segui un cinese. Anche perché, a parte lo stato luogo comune che non abbiamo mai visto un funerale cinese, ma io non li ho mai neanche visti a far benzina. non so voi. Oh, c'è anche questo. I cinesi non fanno mai benzina. Questa è nuova. Questo è un luogo comune. I cinesi non muoiono mai. Questa l'abbiamo sentita varie volte. I cinesi non fanno benzina è stupenda. Cioè, io c'ho. Perché vanno poco in giro. Sono spesso a lavorare. Stanno sempre a lavorare. Io, Gelien e Jessica li vedo fare benzina quando hanno bisogno di fare benzina. Insomma. Però. Io no, sono d'accordo con l'ascoltatore. Non li ho mai visti i cinesi fare benzina. Va bene, va bene. Allora ci chiede un ascoltatore: Manera, potresti suonare i campanelli di tutti i cinesi e chiedere sei tu che hai il coronavirus? Questo ci chiede Davide. Potresti fare. C'è la buona notizia, hai sentito nel giornale radio che in Australia non c'era un caso di coronavirus, falso allarme. Questo un po' mi tranquillizza. Ottimo, ti tranquillizza. Domani posso prendere la metropolitana più sereno. Anche se è stato confermato un caso nello stato di Washington, questo un po' di nuovo mi preoccupa. Si sta avvicinando. Leonardo, spero di vederti sabato ad Art Fiera, vero? Ad Art Fiera Bologna. Vado domenica a fare un giro, invece sabato sera sarò qui a Milano al Teatro Oscar, chi volesse venire a vedere lo spettacolo. E invece domenica sei ad Art Fiera Bologna. Vado a fare un giro, sì. Sì, a che ora? Perché? Dove? Ma scusa, saranno fatti miei. Ma scusa, spero di vederti sabato alla fine. Ho capito, gli risponderò casomai in privato, ma guarda un po'. Ma non vai a fare uno spettacolo? No, vado a fare un giro. E come faceva a saperlo Alberto? Non lo so. Peraltro pensavo di vederti sabato, invece vai domani. No, io sabato sono impegnato qui a Milano. Va bene. No, ma Anacleto, ma cosa vuole Anacleto? Anacleto, ma cosa vuoi dalla nostra vita ancora? Buongiorno, lo sapete che se io vi sento, io sono come la mela. Se un vi sento una volta al giorno, levo il medio di torno. Va bene, ecco. Senti, ma noi no, invece. Noi stiamo benissimo se no, anche sì, non ti io sentiamo. Sono a Prato, ce n'è un miliardo qua di cinesi che dice una paura che muoio. appunto, vai a chiedere ai cinesi se sono portatori di coronavirus. Vacci se mi porta una sega. Senti, no, ti volevo dire per il fatto di prima di Del Debbio, no? Sì, a Montecatini quando facevo il vigile, una volta dei miei amici mi disse: ce n'è uno a Montecatini che è un fenomeno. Dissi: no, io lo voglio vedere. Allora andai al bar, c'era sempre aperto il bar Milano, giocava al flipper, no? A quei tempi c'era il flipper. Entrò uno e mi disse: bomba, ora è lui, verga! È un uomo che faceva dalle 300 alle 350 correggi al giorno, a comando. Una cosa incredibile. Vabbè, una cosa incredibile. Bomba, oltre il Mozambico. Oltre il Mozambico. E tu l'hai multato per questo. Tu l'hai multato. A me mi scappava a ridere. Questa mi sembra un po' una bugia alla Manera. No. Questa è verità, Vangelo. C'è testimoni, te li porto io. Sì, facciamo il processo per vedere se è il bomba. È vero. Salutaci il bomba. Saluto tutti. Domenica sono da Benito, ciao. Oh, domenica è da Benito, eri contento di saperlo tu. Fondamentale. Era fondamentale sapere che era da Benito. Quindi sabato fatti un po' di pubblicità, di sana pubblicità. In via Lattanzio, qui a Milano c'è un bel teatrino, 300 posti. A che ora? Alle 21. Alle 21. Con chi? C'è qualcun altro che si esibisce con te? Credo di no. Come penso di no, dovrei essere io. Sfida Luchetti sabato al Teatro Oscar. Sono da solo, credo. Va bene, sentiamo Salvatore intanto dalla provincia di Milano. Eccoci Salvatore. Io chiamavo per dire che approvo quello che ha detto Manera se riguardo ai giovani che sono tutti beer, routine, social e calcio. Io a differenza di questi giovani, a 10 febbraio festeggio 50 anni di matrimonio. Oh, bravo Salvatore! Festeggia 50 anni. Cosa sono le nozze d'oro di diamante? D'oro, nozze d'oro. Caro Salvatore, l'affido a Manera a questo punto. Prego, Leonardo, di qualcosa, Salvatore. Sì. Tu che dici che l'amore finisce sempre comunque. No, prima anzi, ho fatto un pezzo favorevole all'amore. Appunto. Certo che dopo 50 anni è difficile trovare ancora qualche stimolo. Di solito. No, guarda, io dopo 50 anni, da prendo 50 anni, ma sono 55 anni, io conosco mia moglie. Ecco, sì, ma ormai la vostra relazione si consumerà in un'abitudine stantia. No, assolutamente. Io sarà un po' di stanchezza. Io sono innamorato di mia moglie come fino al primo giorno. Non avrà trovato altre alternative. No, ne ho respinte alternative. Le ha respinte, bravo Salvatore, le ha messe alla porta, prego, quella è la porta, ha detto Salvatore. E sua moglie ha respinto anche sua moglie oppure... Questo non lo so, io penso proprio di sì. Ma... Dai, No, perché io quello che posso dire è che io sono innamorato di mia moglie, hanno anche i difetti di mia moglie. Qual è il difetto principale di sua moglie? Che dice sempre che sono sbadato. Ma è vero? È vero? Sì, sì. Allora non è un difetto. Allora non è un difetto, è il suo difetto, Salvatore. No, è che vuole sempre ragione lei e gliela do. Quindi lei rimane insieme a lei perché è un po' vittima di sua moglie, che la tratta un po' male. No, perché ne sono innamorato veramente. Bravo, Salvatore, non ceda di un millimetro. Cosa farà il 10 febbraio per festeggiare? Cosa farà? Non lo so, penso che sono i miei figli con i miei nipoti che forse organizzano qualcosa. Ah, che meraviglia, che trionfo dell'amore. Che vince sempre su tutto, altro che finisce sempre comunque. Posso solo pagare io dopo. Beh, questo è giusto. Però organizzi i miei figli. Questo è giusto. Bravo Salvatore. Amici ascoltatori, allegria. Finalmente. Un esempio positivo dell'amore che resiste, resiste. E soprattutto resiste a te, alle tue illazioni. Io ho appena detto a mio figlio di crederci. Sì. Intanto inzigavi, Inzigavi. Salvatore, guarda. Cioè non ha ceduto di un neanche mezzo passo. Sì, ma perché lui ormai è nella fase in cui si sta insieme perché non hai altri grilli per la testa, diciamo così. Il periodo difficile è tra i 40, i 35, i 50. Le ha respinte lui. Così dice, ma non ci credo. Risate da Oscar, Leonardo Manera, sabato alle 21 al Teatro Oscar di Milano. Stavolta sono stato preciso. Vedi? Hai detto anche l'orario, 21. Bravo. Andiamo a sentire il traffico. Cogli il momento oltre i limiti del coraggio. Ribalta gli schemi e fai volare l'immaginazione. Contamina le energie e vivi il futuro, cominciando dal palato. Con la pirofila Calloni fai colpo sui tuoi ospiti, ottenendo una lasagna perfetta e tanti altri piatti buoni. Pirofila Calloni, vivi il futuro. Uno, nessuno, 100 Milan. Non ci sono WhatsApp, entrate voi. Questo è il messaggio perentorio che l'Alpino dalla regia ci ha comunicato nell'interfono. E quindi noi siamo qui alle 10:16 minuti. Caro Leonardo, suggerisco, attento a non dire dove vai, ma nera, ci sono cinesi che vogliono contattarti per attaccarti il virus. Io non sorriderei comunque molto di questa cosa, perché è pur sempre una tragedia per chi l'ha preso e chi c'è morto. Pare che sia meno aggressivo della SARS comunque per il momento. Speriamo. Manera, è una considerazione così grande che sul sito del Teatro Oscar non v'è traccia del tuo spettacolo. Non v'è. Comunque sabato alle 21 tu confermi di essere al Teatro Oscar. Sono lì, basta andare. Voi l'avete trovato, quindi no? Sì. Infatti, c'è la sfida Lucchetti, cioè la nostra mina Lucchetti, lo sai. Va bene, ma adesso vogliamo presentarvi un ospite che è un imprenditore. Un ospite è un imprenditore che fa qualcosa certamente di particolare, di peculiare. Molto spesso si dice: ma il carcere deve essere anche un luogo dove si possono redimere le persone, riportarle alla società mentre scontano, giustamente, se hanno commesso un reato, la pena che devono scontare. Allora, Giuseppe Ongaro, che è imprenditore, che saluto. Buongiorno Ongaro. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. È qualcuno che questa cosa la mette in pratica. Allora, ci vuole spiegare. Intanto c'è un numero preciso, se ho capito, di quante persone lei ha assunto di carcerati, Sì, sono tutte persone che vivono in carcere, quindi sono all'interno delle carceri. Quest'anno abbiamo, come ormai da un po' di anni, un centinaio di detenuti assunti e nei 15 anni trascorsi in carcere credo siamo attorno ai 960 come assunzioni globali. 960. Viene da dire come mai lei lo fa, cioè ci crede veramente? Perché ha attinto così tanto la forza lavoro in carcere? È una cosa anche meritoria, però ce la spieghi. Allora, innanzitutto è il mio lavoro, quindi direi aboliamo la parola buonismo. Ecco, non lo faccio, è il mio lavoro. Diciamo che con il mio socio Edgardo Somma, una quindicina d'anni fa, 16 per l'esattezza, eravamo stanchi del nostro lavoro e ci siamo posti il tema, per me molto semplice, una persona finisce in carcere, sconta la sua pena, però un bel giorno esce dal carcere. Ecco, cosa ci ritroviamo? Cosa ci ritroviamo, certo, una persona migliore, peggiore, uguale a prima. Questo tema ci ha stuzzicato, la scommessa imprenditoriale ci piaceva e abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con 3 detenuti e siete arrivati a 960. No, vogliamo anche ricordare che spesso le statistiche lo dicono, c'è la recidiva, cioè il rischio di tornare al crimine per chi esce dal carcere, laddove soprattutto non c'è un lavoro. Perché uno esce e cosa fa? Invece se uno è avviato al lavoro, c'è una percentuale che crolla della possibilità che torni a compiere dei reati. Questi detenuti sono formati da voi oppure... Ecco, qui lei ha toccato un tasto sensibile, nel senso che noi abbiamo l'onere di far campare un'azienda, quindi che questa azienda continui a vivere, e abbiamo l'onere anche però di tutta la formazione, quindi sì, facciamo tutto in casa. Ecco, ci spieghi giustamente, non l'abbiamo detto, che cosa fa, cioè la vostra azienda ha anche delle cooperative esattamente che cosa fanno coloro che lavorano per voi? Ecco, noi siamo partiti con una SRL proprio perché desideravamo avere un autosostentamento dell'azione, ecco, noi non abbiamo mai percepito soldi pubblici. Quindi siamo di fatto un'azienda come ne esistono migliaia in Italia. Detto questo, abbiamo anche una cooperativa perché a livello, diciamo, politico questa ci serve poi per avere dei rapporti con il comune piuttosto che altre società che sono o partecipate e questo ci permette di collocare all'esterno, diciamo, i migliori ex detenuti. Sì. Che noi abbiamo lavorate avuto su Verona, soprattutto, cioè soprattutto lavoriamo su Verona, il nostro raggio d'azione è di un'ottantina di chilometri da Verona, sì. Insomma, sì. Tra l'altro questo va detto, possono lavorare in carcere solo i condannati in via definitiva e sappiamo che gran parte della popolazione carceraria, pare la metà, in realtà sia una popolazione carceraria in attesa di giudizio, comunque non condannata in via definitiva. Questa cosa della legge è un po' bizzarra secondo lei, Ongaro, è anche svantaggiosa o la capisce? Ma qui io posso dare solo un parere personale. Sì, certo. Ecco. A mio parere tutto il perno di tutto è la sicurezza, vale a dire un detenuto che è definitivo ha forse meno voglia di fuggire o di trovare scappatoie rispetto a una persona che è in via di giudizio. Quindi credo che questa sia la cosa principale, ecco. Sembrerebbe il contrario in realtà, esatto, cioè in realtà no, perché allora dipende da carcere a carcere, vale a dire un carcere di Padova lei trova gli ergastolani, d'accordo, a due palazzi. A Verona la maggior parte dei detenuti ha pene che variano da 3 a 5 anni, quindi sono pene brevi, pene minori, e il rischio, diciamo, di fuga è minore, certo. Anche se mi risulta, io ho letto anche una bellissima intervista di Stefano Lorenzetto che le ha fatto, lei anche, impiegate anche degli ergastolani. Sì, sì, perché anche Verona ha una piccola parte di persone che hanno pene molto lunghe, certo. Ecco, sulla recidiva mi piaceva darle 2 numeri. A livello mondiale la recidiva è del 72%. Accidenti. Quando, questo a livello mondiale. Cioè vuol dire quelli che escono e tornano al crimine, ecco. 72%, sì, quindi sì. 7 su 10. 72%. Le persone avviate al lavoro o formate al lavoro, la recidiva è del 3%. Cioè praticamente si annulla. Quindi è pari a zero. Io ho dei detenuti che lavorano presso aziende, anche nostre fornitrici, insomma, ormai da 10-12 anni, e forse sono tra i migliori operai o impiegati che ha la pena. Ma questa dimostrazione, senza voler fare il basso moralismo, che se uno ha un'opportunità, a volte uno nella vita sbaglia perché la vita è andata così, si sono aperte delle porte sbagliate, certo sono sempre scelte personali, ma non per forza e non nel 100% dei casi. Se poi dopo c'è un'opportunità, uno dice: ma io che cosa ho fatto finora? Ho sbagliato e adesso è meglio che... Ma guardi, secondo me la cosa fondamentale per ognuno di noi, no? È credersi. Per cui noi siamo partiti con 10.000 euro di capitale sociale. Oggi abbiamo fatto investimenti per oltre 1.600.000 euro all'interno delle carceri. Quindi bisogna crederci, bisogna avere una buona volontà, bisogna avere l'occasione per farlo. Sì. Quindi condivido perfettamente che se c'è l'occasione, se manca l'occasione, la recidiva è sicura. Nel corso degli anni voi avete avuto qualche problema con questi vostri assunti, diciamo? No, francamente no. Cioè tutte le persone che noi abbiamo assunto hanno il numero di telefono mio personale, quello da cui sto rispondendo adesso. Io francamente non ho mai ricevuto una telefonata alle 2 o alle 3 o alle 4 sì. del mattino. Senta, ma una curiosità, perché spesso si dice quando uno viene assunto ci sono i contratti collettivi, i contratti nazionali, insomma è proprio una curiosità spiccia, ma c'è il contratto per il carcerato, cioè quanto viene pagato, secondo quale tipo di, allora, di contratto? Sì. C'è una legge, allora i contratti sono quelli nazionali, noi applichiamo il contratto industria e tutti quanti sono operai di secondo livello. Perfetto. Poi cambiano le assicurazioni per chi fa il saldatore piuttosto che l'assemblatore di cose plastiche o cose semplici. Quello che consente la legge Smuraglia, che è una legge che è diventata di Stato nel 2002, è quella di poter pagare un terzo in meno rispetto al contratto collettivo applicato il detenuto, che in questo modo tra l'altro partecipa anche alle spese di mantenimento. Questo è molto importante, nel senso che il detenuto che lavora in carcere costa meno alla collettività. Certo. E non è da poco. I contratti prevedono gli assegni familiari, che sono tra l'altro che noi per legge, sempre per questa legge, dobbiamo riconoscere l'avente diritto, quindi non passano attraverso le mani del detenuto. Ok. E che diventa poi una molla per il riavvicinamento al gruppo familiare. Certo. Perché molte persone non hanno mai lavorato nella loro vita. E chi riceve questi soldi si stupisce e magari risponde alle lettere e ricomincia a fare visita in carcere. No, ma mi sembra tutto un circolo virtuoso. C'è un aspetto che ho colto anche nell'intervista di Stefano Lorenzetto, e non lo so, un aspetto personale che riguarda Giuseppe Ongaro. Non lo so se questa parte della sua vita sia in qualche modo una sorta di redenzione. Io l'ho capita così, ma magari lei mi corregge, per la sua precedente vita. Perché Giuseppe Ongaro, lo dica lei, che cosa faceva fino a qualche anno fa? Beh, Dio, facevo le cose che lei sottointende, cioè licenziavo persone. Licenziava persone, cioè quello che viene chiamato il tagliatore di teste, chiamato a risolvere. Il vecchio tagliatore di teste. Il vecchio tagliatore di teste, cioè arrivava in situazioni di crisi aziendali, eccetera, sì, e lei... Sì. No, perché l'ha detto lei, non mi dipinga come un santo, non lo sono stato, voglio dire, a suo modo. Lo riconfermo. Ma sa, anche qui però c'è un aspetto virtuoso nella bruttezza della cosa, se così vogliamo. Cioè, sì. Gli alberi alle volte si devono potare pesantemente perché possano continuare a vivere, insomma, vale a dire. Certo. Anche la figura del tagliatore di teste, anche se viene vista in maniera così un po' disumana, no? Beh, e non è piacevole farlo, per carità, è un lavoro come tanti altri. Anche il tagliatore di teste ha una sua utilità. Elimino 500 persone, e mi scusi il termine elimino perché ultimamente si andava via veramente con l'accetta e non col bisturi, per salvarne 300, 400. Ecco. L'alternativa era di perderle tutte, dice. L'alternativa secondo me sì. Se no non avrei fatto un tipo di lavoro. Poi i risultati, insomma, mi hanno dato spesso ragione. Mi è capitato di licenziare qualcuno che poi è andato a rubare e poi lei lo ha riassunto dopo. Ah, può essere questo. Può essere. Questo no, non lo mi sono auto alimentato la mano d'opera. No, ma quindi no, per credo, rispondere alla domanda, c'è insomma in qualche modo una ricompensa di... oppure non c'entra niente la sua vita? Ma no, ma io direi che le compensazioni e l'armonia stanno alla base di noi. È un lavoro che faccio molto volentieri. E come diciamo, ho sempre fatto qualsiasi lavoro. Il lavoro per me è una parte molto importante. Se lo si fa mal volentieri, siamo tutti rovinati, no? Questa qua non è una redenzione, però diciamo che forse sì, forse sono contento del fatto di poter assumere persone e di poter dare una mano alle persone. A persone, sì. Senz'altro. Va bene, noi la ringraziamo Giuseppe Ongaro per questa storia che ci ha raccontato, imprenditore che ha dato dal lavoro in questi 15 anni insieme al socio. Non è arrivato ancora nessun messaggio polemico? Detenuti. Non lo so, non, ero talmente interessato ad ascoltare le parole di Ongaro, vedi, sono commosso dalle parole di questa persona che colloca nel mercato del lavoro i carcerati. Complimenti a lui. Vedi che ci saranno state anche delle critiche, assolutamente, e ci saranno delle critiche, però devo dire che la maggior parte sono... Però è molto pacato, dava elogio. Serenità questo signore, sì, quando parlava. Sì, chiedi a Leonardo quando viene al teatro di Treviso. Sai se c'è in programma? Mi sembra di no. C'è del vacuo nei suoi occhi in questo momento. No, Treviso non mi sembra proprio. Sta prendendo purtroppo il perché telefono, il teatro di Treviso, dove hai il calendario dei suoi programmi. Forse sei già programmato a Treviso e neanche lo sai. Allontana un po' il telefono perché è miope. Vediamo. Treviso. No, risulta, no, non mi risulta Treviso a breve. Guarda meglio, guarda meglio. A Treviso c'è un teatro meraviglioso, un teatro all'italiana molto bello. Ci sono stato in altre occasioni. Si chiama teatro? Di Treviso, comunale, il comunale di Treviso, lo so. Cos'è uno stadio il comunale di Treviso? Vediamo. Poi ci chiedono Pordenone. No, Pordenone. Teatro Verdi di Pordenone. Ci no, sono sì, stato... ma non è come le targhe Piacenza PC. Teatro Verdi di Pordenone Pisa, è in centro. Di fronte all'Hotel Moderno no, c'è il Teatro Verdi di Pordenone. Quando vai a Pordenone? Sono stato a dicembre. Ecco, quindi basta, almeno per almeno un anno, niente. Insomma. Vado dove mi chiamano, anzi, ecco, magari, nel senso... dite agli organizzatori spettacoli Treviso e Pordenone di chiamare che io arrivo. Allora, poi adesso... è comodissimo il teatro di Pordenone perché lì di fronte c'è proprio l'hotel, quindi puoi fare lo spettacolo, a due passi c'è l'hotel, quindi cosa vuoi di più? Ti barrichi tra teatro e hotel, stupendo. Allora, Meazza non si vede. È a Vicenza, m'han Vicenza detto. Oro, ah, è a Vicenza. Oro è la manifestazione, se non sbaglio. Oro. Sottolineiamo. Poteva non andare Mauro Meazza alla manifestazione Vicenza Oro, no. È là fisso, si ferma anche quando finisce la fiera per raccattare i rimasugli. C'è sempre un po' di polvere d'oro che va qua e là. Lui va lì con lo scopino, la paletta ding, ding, ding, ding, a raccogliere l'oro. E c'è a Vicenza Oro. Vabbè. Vabbè, e noi invece qui. Uno, nessuno, 100 Milan. Grande Manera, quello è un teatro piccolo ma importante. Io sono nato proprio in quella via. Al mattino nella via adiacente, quando avevo 4-5 anni, mi ricordo che vedevo Dario Fo con sua moglie che andavano a trovare, credo, i genitori di lei, che era di fronte a casa di mio zio. Grandissimo. Se posso vengo a vederti. Bentornato in zona Calvairate, caro Manera. Oh, grazie, io ho abitato lì 6 anni in zona. Vedi che gli ascoltatori lo sanno. Via Sebino prima e poi via Montevelino. Sì. Ho fatto i primi 6 anni a Milano lì in degli appartamenti minuscoli proprio, minuscoli. Mi ricordo che una volta è venuta una ragazza a trovarmi e le avevo detto: ma guarda che io abito in un piccolo monolocale. E lei mi ha detto: ma figurati, non c'è problema, anch'io sto in una casa piccola. Appena aperto la porta ho detto: certo che è proprio piccolo. Allora, ricordiamo tutto questo per la precisione massima, Alfredo Giuseppe Maria, che il teatro di Treviso, te lo ricordi, il mitico? Il comunale. Il teatro comunale Mario del Monaco di Treviso è intitolato Mario del Monaco. Tenore, questa è una sfida Lucchetti vinta, quindi sì, insomma, per la precisione, il teatro comunale Mario del Monaco. Sì, che cantava anche Un amore così grande. Allora, ricordi? No. Allora, un amore così grande, un amore così. Soltanto noi. Allora, la cosa più bella era il corretto. Soltanto noi. 10:40 minuti, signori, ci sono donne, in questo caso devo dire soprattutto donne, che vogliono, non so se dire il verbo giocare, atteggiarsi, vivere un giorno come se un giorno nei panni di Kate. Ho letto anche questo titolo. Io voglio salutare Elisa Motterle, buongiorno. Buongiorno. Elisa, ma sentite che voce squillante, perché certamente per il lavoro che fa è un'esperta dell'International Etiquette and Protocol Academy of London. Attenzione, cioè l'etichetta che si usa anche a corte, immagino, no? E quindi, sì, assolutamente. Quindi tiene dei corsi intitolati Kate for a Day, cioè per le donne che vogliono... In qualche modo, lo dica lei, cioè cosa vogliono sapere, giocare, come ci si... diciamo, giocare. Allora, innanzitutto è un pomeriggio sicuramente, allora questo workshop ovviamente è una delle tante cose che io faccio e l'idea mi è venuta proprio perché spesso si pensa al galateo come qualcosa di buono appunto per Kate Middleton e comunque questo personaggio ha sicuramente un grande seguito, esercita un grande fascino su un sacco di gente, ma poi in realtà... quello che volevo far sperimentare è il fatto che tante cose in realtà del galateo e del bon ton si possono trasferire facilmente anche nella nostra vita quotidiana, anche senza essere Kate Middleton. Certo. Per esempio, come stare sedute su una sedia, cioè ci sarà una postura, no? Per essere come Kate, allora, è chiaro che poi ognuno sul divano a casa sua fa quello che vuole. Vabbè, però anche Kate magari si stravaccherà, ecco. Assolutamente sì, lo penso anch'io. Però appunto anche per le ragazze che partecipano a questi workshop, che magari alle quali magari può capitare di dover parlare in pubblico per lavoro o in situazioni così un po' più quotidiane, per allora sapere che magari in quella situazione stai attento e ti siedi in questa maniera molto composta ti può dare quel tocco di sicurezza in più appunto sicurezza. Per affrontare una dimensione. Ovviamente ci sono cose molto inglesi come mettere il cappellino, come girare il tè nel modo giusto. Sì, assolutamente. C'è qualcuno che ha versato il tè sulla tovaglia, questa cosa Kate Middleton non la farebbe mai. Ma soprattutto devo dire che sono tutte bravissime. Ma può essere faticoso a suo parere vivere così, cioè con queste regole anche stringenti, è veramente pesante. Terribile. Per quello magari che Meghan non ce la faceva a sopportare queste regole, diventa una gabbia vivere così. Beh, allora sicuramente secondo me con Meghan il problema è stato un po' un altro, nel senso che comunque la monarchia ti chiede di mettere da parte la tua personalità, cioè tu non sei più lì, in quanto poi dopo se sei bravo con gli anni ti crea il personaggio come sta succedendo a Kate, ma Kate è lì da mille anni, insomma. No, comunque è stupendo, insomma ci sono delle donne che sono venute a fare questo corso, credo 120 euro, 120 euro per imparare, io ne vorrei, guardi Elisa Motterle, mi scusi, ma ne vorrei conoscere una, io vorrei sapere chi davvero, io presente, eccola qua. Ma pagherei anche l'altamente. Elisabetta Fusconi che sogna di essere una Kate. Ma voi vi rendete conto? Ma darei tanti soldi. Ma tra l'altro non è un caso, il corso si chiama Kate for a Day e non Meghan for a Day, perché Meghan è risaputa, è una parvenue alla fin fine, ecco. Invece Meghan for a Day è donna di classe, quindi Kate, io per prima Kate, vorrei Kate, imparare Kate. A emularla indubbiamente. Tra l'altro Elisa, se posso permettermi, io vorrei suggerirle un corso di sicuro successo, un Manera for a Day. Manera for a Day. Come trascorrere una giornata al bar Jimmy senza annoiarsi in braghe. Sarebbe meraviglioso, sono sicura che... Guarda. Anche perché abbiamo avuto qualche maschio interessato, solo che noi in questo momento insegniamo l'etichetta. Ah, stupendo, la maniera come... Ma è molto semplice, allora... potrebbe essere assolutamente... È un po' tutto il contrario di Kate, postura un po' ingobbita, piedi che strascinano, no? Quando... Sbiascica anche ogni tanto. Lamentela sospinta. Dress code discutibile. Dress code discutibile. Stanno facendo un bel ritratto, come se fossi proprio una merda umana. No, scherzo. Faccio schifo come uomo. Comunque, Lisa, io glieli manderei volentieri l'uno e l'altro perché abbisognano di buone maniere. No, perché questa, allora, è Elisabetta Fusconi che ha fatto questa incursione. Allora, ci conferma, e ce lo può confermare lei e credo anche Lisa Motterle, che le persone, le donne in questo caso, che fanno questo tipo di cose, è perché che guardano, che sono fanatiche, leggono queste notizie di cui non frega niente a nessuno in realtà, lo fanno perché sognano di essere... Perché vorrebbero essere loro al posto di Kate. No, io non credo, devo dire. Io vedo, sono molto rincuorata perché in un mondo di Kardashian vedere qualcuno che segue Kate, cioè a me, nel senso, tanta stima per queste persone, non so come dire. Nel senso meno che Kardashian Kate e più Kate, bello questo. È un po' meno caffonaggine sostanzialmente. Meno caffonaggine, più stile. Abbiate pazienza, cioè questa è un po' la mia missione di vita, almeno caffonaggine, nel senso che appunto vedendo un po' come butta in generale sia nella cultura, nella politica, cioè cultura intesa come cultura pop chiaramente, quali sono i modelli di riferimento che molto spesso appunto un po' a 360 gradi sono molto... aggressivi, sbracati, che comunque Kate, che ha fatto della compostezza, diciamolo pure, dell'autoannullamento, perché quello il suo ruolo richiede, cioè di essere lì e appunto... Insomma, più questo di... ruolo, più etichetta, detto un po' che più... tutte quelle che si dedicano ai selfie, Elisa, non potranno mai essere come Kate, perché se c'è una cosa che Kate Middleton non fa, sono i selfie. E già quindi li tranciamo metà della popolazione femminile. Cioè, senti com'è informata, sa che Kate Middleton non fa i selfie, cioè voi vi rendete conto? Qual è a suo parere la prima cosa da cui partire? La prima cosa da cui partire, che poi ci dobbiamo salutare per diventare come Kate, Per rispettare l'etichetta, per comportarsi bene in società. No, allora, per rispettare l'etichetta, per comportarsi bene, il rispetto, perché questo alla fine è il galateo, cioè tutte queste regole, queste cose che poi non è saper usare la forchetta giusta che ti rende una persona educata o maleducata, è il fatto proprio di pensare agli altri e di mettersi nei panni degli altri. Secondo me è proprio super. Questo però è irrealizzabile. Lo può fare Leonardo anche... che mette le dita nel naso non è presentabile. No, va bene. Questo no. Allora, però per esempio se te le metti in privato è chiaro che se te le metti di fianco a me e non pensi che questo magari mi può... No, ma dai, questo non lo fa. Questo non lo... Almeno no, questo l'abbiamo distrutto, ma questo non lo fa. Dobbiamo salutare Lisa Motterle e la ringraziamo. Vabbè, quindi tu spenderesti 120 euro per fare Kate for a Day? Ma certo, anche di più, istruttivo, fino a quanto potresti spingerti? Potresti pagare tu, potrei fare un collegamento dal corso, rendere doti gli ascoltatori di come si svolge. Torna al tuo posto, va. Ciao, è stato bello, traffico. Anche oggi. Abbandona le certezze e respira il cambiamento. Immagina nuovi mondi a partire dalle tue radici. Domina il presente e vivi il futuro, cominciando dalle tue unghie. Con il tronchesino Calloni, mai più unghie fuori posto. Unghie sempre tagliate bene col tronchesino Calloni. Tronchesino Calloni, vivi il futuro. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, noi siamo uomini di parola e anche donne di parola qui in redazione a Uno Nel Suo 100.000. Eravamo rimasti con la curiosità di sapere, ma ortodonzia. Saluto il clown Neronello. Mi dispiace vedere questa ironia sulle mie favole. Non c'è ironia. Sono favole molto formative che i bambini gradiscono molto quando le interpreto nelle case private dove mi reco per intrattenere questi figli del demonio. Eccolo là. Comunque, anche lei però. Dal momento che i giorni precedenti non avevo potuto io, il clown Neronello, interpretare la favola di Ortodonzio, Mi è sembrato giusto oggi riproporla, dal momento che per questione di tempo, poiché la trasmissione è impegnata in altri futili argomenti, ecco, non ho mai potuto portarla a termine. Allora, c'era una volta in un piccolo villaggio ai piedi dei monti, un villaggio dove vivevano due giovani uomini che si conoscevano fin da bambini. Entrambi erano molto poveri. Il primo si chiamava Badrusillo e il secondo si chiamava Ortodonzio, per via della sua dentatura complessa. Badrusillo non pensava mai al futuro, tirava a campare chiedendo l'elemosina e continuava a lamentarsi di quanto era sfortunato. Ortodonzio invece era molto previdente, faceva il taglialegna e ogni giorno si svegliava all'alba, andava nel bosco, riduceva in pezzi i rami degli alberi e li portava al mercato per venderli. Tutto quello che guadagnava lo metteva da parte perché pensava che da vecchio non avrebbe avuto più la forza di fare quel mestiere così duro. Una mattina Ortodonzio chiese a Badrusillo di accompagnarlo al fiume. «Vieni a lavorare con me, potrai risparmiare qualcosa per i tempi bui», disse Ortodonzio, che parlava così a causa della dentatura che non permetteva una perfetta dizione. Ma mentre Ortodonzio lavorava, Badrusillo stava seduto, annoiato, a lanciare sassolini nel fiume. Ortodonzio, irritato, a un certo punto sbottò. Iniziò a inveire contro Badrusillo e si agitò così tanto che l'ascia gli cadde nelle acque gelide e tumultuose del fiume. D'istinto si tuffò Ortodonzio per recuperare l'ascia, ma venne inghiottito dalla corrente. Le ultime parole che si ricordano di Ortodonzio sono «Oh cazzo!». Quali sono le ultime parole scolpite? L'ho già detto. Badrusillo non poté fare nulla per salvare l'amico, quindi montò in sella al suo destriero e fece l'unica cosa che un uomo deve fare. Cambiò il beneficiario della polizza vita di Ortodonzio, oh, mettendo il suo nome, e andò all'assicurazione successivamente a riscuotere il malloppo. E così visse per sempre in grande prosperità, senza bisogno di lavorare. Bimbi, qual è la morale della favola? Qual è? Se lavorate sodo, fate sacrifici e pensate al bene degli amici, morirete inghiottiti dalla corrente di un fiume come Ortodonzio. Se invece pianificate una bella truffa all'assicurazione, non dovrete più lavorare e vivrete per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola, cari bambini figli del demonio. Va bene. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. Va bene, beh, ero molto curioso effettivamente di vedere, ma gliel'hanno scolpite sulla lapide di Ortodonzio le ultime parole? Questo non lo so, caro Alessandro Milan. Va bene, dai, vogliamo sentire Paolo che ci chiama dalla provincia di Imperia, eccoci Paolo. No, io siccome prima sentivo parlare di carcere, sì, eccetera, io faccio volontariato in carcere. Bene. Lì in Imperia. E vedo che tutti questi detenuti hanno pene inferiori ai 4 anni. Solo che questi sono comuni personaggi extracomunitari. Insomma, come mai politici non vanno mai in carcere anche con pene inferiori a 4 anni? Questa è la mia domanda. Cioè, lei vede solo dei, ci passa il termine, poveracci, dei poveri cristi. Dei poveracci che vanno lì per bisogno, non lo so, sono caduti, avranno spacciato un po' di droga. Ma io non vedo nessun politico, non ho mai visto un politico che nelle carceri. Beh, ci sono alcuni. Beh, se la pena casi è inferiore ai 2 anni, di solito c'è la sospensione della pena. No, ma ci sono anche. Però casi è vero, politici. Questa è una affermazione che io condivido, perché anche quando io sono andato in carcere a parlare con i detenuti, insomma, ho sempre visto. Ma ragazzi, ma cioè, diciamo che di ricchi, allora, ne ho visti pochi, ecco, in carcere. È innegabile che se sei, ma questo non vale solo in Italia, se sei ricco e puoi permetterti gli avvocati più bravi, avrai un livello di difesa tecnica molto più elevata, e quindi la possibilità di, sì, come dire, anche se poi no? Magari ci sono mafiosi ricchissimi che sono in carcere, sì, è un discorso, sì, un po', no, diverso, no, ma lui comunque le faceva la questione, Paolo, di politici, no, i mafiosi è un'altra cosa, sono anche ricchissimi, ma se fai certi reati, certo, poi li fai in carcere comunque. Però se l'hai detto tu tante volte, la giustizia è uguale per tutti, a parità di condizioni, cioè quello che può permettersi i migliori avvocati viene difeso tecnicamente in maniera egregia e il poveraccio che invece no, finisce un po' per essere inghiottito dalla situazione. Va bene, concludiamo con Paolo dalla provincia di Imperia. È stata una bella stagione, salutiamo tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo in autunno, iniziamo non proprio a settembre ma attorno al 10 ottobre con una nuova stagione di Uno Nessuno 100.000 con Leonardo Manera, Elisabetta Fusconi forse con le sue incursioni e Alessandro Milan se forse torno il 2 novembre, io 3 novembre. No, vabbè, la stagione è finita. La stagione è finita. Ci troviamo, chi lo sa, forse domani. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no alle 10 a me! Nessuno, 100.000.